Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio. Non sto a spiegarvi cos'è il sabato del villaggio perché sono già le 15.32, è tardissimo, quindi subito il numero per i vostri sms ma anche per i vostri whatsapp: 349-238-6666, 349-238-6666, il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, l'hashtag della trasmissione, cancelletto ISDV come il sabato del villaggio. Tanti i temi di questa puntata dei nostri liberi consigli per il fine settimana, ma cosa ci terrà compagnia questo sabato? Beh, in questo sabato ci prepariamo per Halloween. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. Beh, Radio 24 libera la voglia di fare. Abbiamo sentito il nuovo payoff qualche istante fa. E al sabato del villaggio si libera anche la voglia di collegarsi con Enrico Pagliarini. Ma un momento, non ci colleghiamo questa volta con Enrico Pagliarini, perché Enrico Pagliarini è qui. Sorpresa, eccoci. Ma davvero non lo sapevo, cioè, che cosa non sapevi? Che ti saresti materializzato qui? Nemmeno io fino a 20 minuti fa. Però vabbè, eri in giro, ho detto vabbè, vado in radio. Allora, Halloween, cosa facciamo, Enrico? Possiamo scegliere se mettere paura agli ascoltatori o tranquillizzarli? No, li tranquillizziamo, okay. Okay. Parliamo di smartphone. Mm-hmm. Dunque, però facciamo una specie di patto. Sì. Con i vegetariani. Oh, cioè, che paura, no? Ti prego, non far arrabbiare nessuno. I vegetariani non dovrebbero utilizzare, cioè usando la stessa logica, non dovrebbero utilizzare lo smartphone. No, perché? A meno che ci sia un pensiero dietro alla scelta di carattere etico, però ci sono alcuni che invece lo fanno perché dicono: attenzione, perché la carne potrebbe causare e tutta una serie di cose e anche tragiche. Gli smartphone? Allora, nel 2011, oggi voglio parlare di questo perché continuano a scrivere gli ascoltatori che mi chiedono cose sui campi elettromagnetici degli smartphone, del wifi, eccetera, eccetera. Allora, nel maggio del 2011 un gruppo di 34 esperti dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'OMS, quindi parliamo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, stabilirono che le radiofrequenze del cellulare potrebbero causare il cancro. Mi sembra che mettano un po' le mani avanti. Potrebbero. Sì, sì, sì. Allora, non ci sono studi al mondo che dimostrano, così come non ci sono per la carne, diciamo così, che ci sia un legame definito e stretto. Ci sono studi ancora in corso, ci vorranno probabilmente decenni per capire che tipo di danni potrebbero causare le radiofrequenze, però di sicuro non ci sono nemmeno studi che dicono stare al telefonino attaccato all'orecchio per 10 ore al giorno fa bene. Okay. Allora, Enrico, facciamo una cosa, siccome abbiamo detto che non vogliamo mettere paura ma vogliamo tranquillizzare, esatto, dici cosa fare per stare più tranquilli. Allora, per stare più tranquilli si possono fare alcune cose, ad esempio tenere il telefono un pochettino distante dal corpo quando si parla, sia quando lo si usa che quando non lo si usa. E uno potrebbe dirsi: vabbè, ma se io devo parlare lo devo tenere vicino all'orecchio. Un consiglio in questo caso potrebbe essere quello di fare telefonate un po' più brevi. Devo anche dire che sui manuali di istruzione di alcuni smartphone c'è scritto che le prove che vengono fatte per testare i campi elettromagnetici, e in alcuni casi vengono anche dati alcuni consigli, dicono proprio che il telefono viene tenuto ad una distanza di 0,5 centimetri, un centimetro e mezzo. Poi bisognerebbe fare un discorso, non attaccato. Appiccicato. Poi bisognerebbe fare anche un discorso su come vengono fatti questi test, ma sarebbe un discorso complesso sul quale nemmeno io avrei competenza. Però sapete che sul tema dei test dei prodotti ci sono tutta una serie di critiche in tutto il mondo da parte delle organizzazioni che tutelano i consumatori, eccetera, eccetera. Comunque, questo sicuramente è un principio. Perché? Allora, il campo elettromagnetico decresce in maniera inversamente proporzionale alla distanza della sorgente. Può sembrare complicato, ma è facilissimo. Se il telefonino lo teniamo appena un pochettino più distante dal nostro corpo, la potenza del campo elettromagnetico decresce in modo molto più che proporzionale. Ok, quindi se teniamo, che ne so, a un centimetro, raddoppiamo la distanza da un centimetro a due centimetri, la potenza si riduce di 4. Lo sai che adesso i ragazzi li vedi non telefonare col telefonino. Bravissimi. E io sto mimando in radio, non mi potete vedere col telefonino all'orecchio come noi, ma col telefono davanti. Ah, col viva voce, sì. Sì, spesso parlano col viva voce col telefono davanti, a volte perché fanno anche videochiamata e quindi si guardano. Sì, sì, sì. Allora, questa potrebbe essere sicuramente una soluzione. Ovviamente il viva voce è un problema quando ci sono altre persone. Beh, oppure sentono, se siamo tutti i fatti tuoi. Esatto, oppure se siamo in un luogo rumoroso. Però nel capitolo viva voce vorrei anche dire che non c'è solo il viva voce dello smartphone, quello integrato, ma ci sono anche dei prodotti che si possono accoppiare collegandoli in Bluetooth. Ci sono delle tecnologie e anche dei prodotti fatti molto bene, sono molto belli, che migliorano di molto la qualità, quindi quella può essere un'altra soluzione. Però volevo aspetta solo un concetto... secondo, perché a parte il fatto che giustamente Pietro mi diceva poi si registrano anche messaggi vocali, anch'io ormai uso WhatsApp per pigrizia, senza scrivere più messaggi ma registrando i messaggi. Sì, parlo. Sono veramente diventata pigrissima. Ci arriva un messaggio al 349-238-6666 appunto via WhatsApp, però non vocale, non mandatemi i vocali perché sono in studio da sola, non riesco ad ascoltarli prima. Emanuele ci scrive: gli auricolari Bluetooth. Allora, ecco, un altro capitolo è sempre per tenere distante lo smartphone. Ma anche non Bluetooth, ecco. Sì, sì, utilizzare gli auricolari. È ovvio che gli auricolari, soprattutto i Bluetooth, hanno un minimo di emissione elettromagnetica, però è molto bassa. Teniamo sempre presente questa cosa, e qui così accenniamo anche al Wi-Fi. Il telefonino deve trasmettere ad un'antenna che, se siamo in città, può essere lontana alcune centinaia di metri, a alcuni chilometri, ma se siamo in campagna, e quindi lo smartphone ha quella potenza, potrebbe essere in condizioni di dover trasmettere a chilometri di distanza. Quindi la potenza che c'è all'interno degli smartphone è molto elevata, e la potenza emessa dipende dalla distanza dell'antenna della stazione base. Okay. Quindi se siamo in città probabilmente la potenza è più bassa, se siamo lontani è molto più elevata. Quindi questo per far capire che gli auricolari Bluetooth e anche il Wi-Fi hanno potenze molto più limitate. Infatti non capisco perché alcuni ascoltatori mi scrivono e dicono: ma è pericoloso il Wi-Fi? Ad esempio, ma ogni tanto ci sono casi di scuole che vietano il Wi-Fi per non ha senso. Sul Wi-Fi potremmo dire questo: magari non mettetelo di fianco al letto. Cioè l'antenna, ecco. L'antenna, ecco. Ovviamente se l'antenna è a 30 centimetri dal banco dell'alunno, insomma, forse è meglio che sia a 3 metri. Ma perché metterla proprio lì? Ma in sì, effetti. Ma infatti, ecco. Okay. Ma basta veramente poco, basta veramente tenere una distanza di, parlo dello smartphone, di alcuni centimetri. Dicevo tenere distante sia quando si parla, ma quando soprattutto non lo si usa. Quindi, visto che il telefono è sempre connesso, deve sempre comunicare con la rete, anche semplicemente per dire dove si trova e dire che è acceso, perché così mi trovano quando qualcuno mi chiama, non tenetelo nel taschino interno della giacca. Stai parlando soprattutto con gli uomini, perché le donne, borsetta. Sì. Però avranno avete delle tasche anche voi, no? Sì, però, sì, però meno. Tenetelo, ripeto, bastano pochi centimetri per essere più sicuri. Essere più sicuri. Quindi, rispondendo per il Bluetooth, per l'auricolare, sicuramente l'auricolare aiuta tutto ciò. Altro consiglio che può sembrare strano, ma allora, utilizzare il telefono preferibilmente all'esterno e non all'interno degli edifici o comunque dove c'è un segnale basso. Un errore che faccio anche io, a volte mi infilo in uno degli studi, magari nostri, della radio, vuoti, perché voglio fare una telefonata dove non mi sente nessuno, ma soprattutto non mi disturbi nessuno. Certo. Sbagliatissimo, perché vado in uno studio che è chiuso, ci sono delle pareti anche molto spesse, lo smartphone, quindi il cellulare, per trasmettere all'antenna aumenta la potenza, perché cioè, è molto più complicato per uscire da e superare questi ostacoli, e l'emissione elettromagnetica è più forte. Se uno va all'esterno, raggiungere l'antenna è molto più facile, quindi l'emissione è molto più bassa. Ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666: e quando si va a letto sul comodino, può essere un consiglio staccare la connessione dati? Sicuramente, staccare proprio l'antenna, non solo la connessione. Non solo la connessione dati, sì. Proprio... Io di notte i miei smartphone, perché ne ho un set, li metto tutti in modalità aereo, cioè spengo le antenne, a volte alcuni proprio li spengo proprio, però questo dipende un po' da... ecco, se uno non li vuole spegnere, che li metta qualche metro. Ecco, non sul comodino. Ok, quindi okay. Puntiamo una sveglia normale e non quella del telefonino. Beh, oppure se uno smartphone ha 4-5 metri, la sveglia si sente, anzi, devi scendere dal letto per spegnerla. Esatto, e questo è, Enrico ha una sua praticità proverbiale. Abbiamo ancora 2 minuti, Enrico. Allora, in 2 minuti due ultime cose. Se vogliamo misurare, questa è un'applicazione, un consiglio, un'applicazione per misurare l'emissione del campo elettromagnetico e sapere delle statistiche durante il giorno, durante la settimana, quindi di quanto siamo stati esposti, c'è un'applicazione che si chiama TauCon, Tau con la W, Con con la K, quindi T di Torino, O? No, Tau, proprio scritto così, TauCon, TauCon, perfetto, e misura l'emissione elettromagnetica. E poi c'è un prodotto abbastanza nuovo e secondo me vedremo che tipo di successo avrà, che si chiama distanziofono. È un aggeggio di plastica che serve per tenere lo smartphone ad una distanza di 3-4 cm. È una specie di imbuto, di tromba, piccola tromba di plastica, distanziofono. È facilissimo, si trova sul sito. Ha un nome un po' vintage, però sembra, però è carino, sì. Distanziofono, un esemplare qui sulla scrivania, dopo te lo faccio vedere. E dopo magari twittaci una foto del distanziofono, distanziofono, esatto. Per cellulare, l'ho trovato. Si può comprare anche online, il distanziofono. Beh, se prende piede, insomma, è un'idea originale. Enrico, sì. Vorrei concludere con l'ultimo consiglio. Comunque, tranquilli, cioè non succede niente, insomma, questi sono alcune, non volevamo mettere paura. No, anzi. È un po' come le automobili, certo, possono provocare la morte, è certo, però mica non usi l'automobile, no? Certo. Devi stare attento. La vita può provocare la morte, anzi la provoca sicuramente. Enrico, l'ultimo consiglio, anzi due. Uno, la nuova app di Radio 24, 2024 quando? A 2024, se volete sentirlo in diretta, il venerdì alle 22 oppure domenica alle 13:30, però se andate al cinema il venerdì sera o a cena e a domenica siete a pranzo, la cosa migliore è ascoltarlo in podcast, anche perché ci sono tutte le interviste che io faccio in versione integrale. Tutto gratis, però. Certo. Grazie Enrico Pagliarini, l'appuntamento al prossimo sabato. Ciao. Noi ci troviamo tra poco, traffico, e poi parleremo con il nostro gastronauta. Il sabato del villaggio. Ovviamente durante le pubblicità c'eravamo io e Enrico Pagliarini a cercare di fotografare il distanziofono, che ora vi twitteremo. La foto è venuta così, ma adesso twittiamo l'immagine del distanziofono. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a sentire cosa bolle in pentola con il nostro gastronauta. Ciao Davide! Ciao, buongiorno. No, non... può bollire in pentola la zucca, forse. Esatto, perché so che la tua tendenza non bolle proprio, niente pentola. No, la mia tendenza invece va sul pesce crudo. Ecco. Perché sai, dopo il sushi, dopo la sushi mania che diciamo ha conquistato il mondo, e poi è arrivata la ceviche, prima dal Giappone, e la ceviche è arrivata dal Perù, ora da dove arriva? Arriva dalle Hawaii. Arriva una moda che sembra che stia già invadendo soprattutto gli Stati Uniti e Londra, si chiama poké. Sai, e da non cosa, ha niente a che fare con i Pokémon, ma poké significa? No, neppure con il poker. In hawaiano questa parola significa affettare, sezionare o tagliare di traverso a pezzettini. Insomma, sai cos'è? È un'insalata di pesce crudo tagliata appunto a pezzettini, ma niente di particolare, però sai, queste mode ormai quando arrivano con questi nomi immediatamente conquistano il mondo. Quindi è un'insalata di pesce crudo messa in una ciotola, quindi, e poi vengono conditi e macerati con tantissimi ingredienti vari a seconda dei paesi dove sono. Ad esempio quella originale è composta da salsa di soia, olio di sesamo, sale marino e cipolla, quella dolce di Maui, ma non è che si trova sotto casa la cipolla di Maui. Sì, la cipolla di Maui mi sembra abbastanza singolare. Mettiamo la cipolla di Topea. Comunque ti dicevo che sta invadendo, perché poi negli Stati Uniti, a New York, già non si contano più i locali che fanno appunto, che servono questo poke o poke. Si può dire in due maniere. In altre parti cosa si aggiunge? Si aggiungono degli ingredienti locali, ad esempio il peperoncino in alcuni paesi, in altri paesi ancora si mette dentro un po' di tutto, in Australia mettono macadamia, quindi è diventata una pietanza internazionale, già come è stato il sushi, come sta diventando la ceviche, ma è arrivata anche a Milano, quindi anche noi italiani non ne possiamo fare a meno. Il primo locale a aprire in Italia, indovina un po', non è stato Milano, no, è stato a Salerno. Ha aperto un locale che si chiama Suriso, e il merito è di uno chef che si chiama Aglibot e di un imprenditore italo-neoyorchese, il quale è tornato in Italia, magari alla sua città natale. Cosa ha fatto? Ha riportato questa moda. Come ti dicevo, quali tipi di pesce, perché anche questo è importante. Quindi ci va un po' di tutto, però diciamo che la base è il tonno fresco pinna gialla. Tu sai che c'è il pesce, il tonno rosso, e c'è il tonno pinna gialla. Il pinna gialla è quello più noto in giro per il mondo, mentre il rosso di solito si trova quasi esclusivamente nel Mediterraneo. Certo. C'è chi sceglie però anche il salmone e tanti altri pesci. A Milano, perché a Milano c'è già un posto, si chiama The Botanical Club. È un posto famoso per il gin, addirittura c'è una produzione di gin proprio all'interno. Ah, però. E i due proprietari pari abbiano scoperto una volta che sono andati negli Stati Uniti, quindi immediatamente lo hanno adottato in Italia. Quindi dopo sushi, ceviche e voilà, arriva il poké che invaderà un po' il mondo. E devo dire che si può fare anche a casa, volendo, perché sai, il pesce crudo si va a comprare e poi a casa tu te lo puoi condire come ti pare. Però pare, ecco, questa è un'altra notizia, che sia un po' uno scopiazzamento da una trovata giapponese che si chiama Bara Chirachi. E anche questo è uno sushi servito in una ciotola a modo insalata, condito con vari ingredienti, è molto simile, però sai, ora qui ci sarà veramente la lotta per dire l'ho scoperto io, no, l'hai scoperto tu, è giapponese o hawaiano. Però sai, le Hawaii attraggono la mente dell'uomo e del consumatore, quindi sicuramente sarà un prodotto di grandissimo successo. Sono sicura che chi vuole essere alla moda dirà subito: voglio andare a provare il poke o poke. Davide, abbiamo qualche minuto, vuoi raccontarci qualcosa invece, visto che hai citato la zucca? Noi stiamo parlando di Halloween in questo pomeriggio, ne parleremo molto nella prossima ora del Sabato del Villaggio. Ci dai due dritte per la zucca? Ma dunque, la zucca, io adoro un piatto a base di zucca, che sono i tortelli di zucca e patate. E c'è in Romagna, oltre il tortello, ma il tortello si fa anche da altre parti, anche in Toscana, c'è un vicino alla piadina, nelle piadinerie, si serve il cassone, viene chiamato, e dentro proprio il ripieno è fatto da zucca e da patate, aglio e pepe. Però questo è un piatto che piace a me, ma di zucca, in questo momento il piatto che io consiglio è la zuppa di zucca con il tartufo, perché sono due prodotti che si sposano perfettamente, molte cose sono a base di questi due prodotti, quindi assolutamente questo. Poi a Natale, ma si trova già, il panettone alla zucca, quindi anche questo è ormai una cosa abbastanza diffusa. La zucca fritta è un'altra cosa, secondo me, che è molto buona da mangiare. Il risotto alla zucca con i fagioli, che è una tradizione lombarda, si mangia in Lombardia, si mangia in Brianza soprattutto. Quindi diciamo che con la zucca si possono fare tantissime cose, molto meglio che Halloween, secondo me. Molto sono meglio d'accordo. Mangiarla la zucca mettigli gli occhi, il naso, tutte queste cose qua che la rendono inutilizzabile. E poi mi dicono, io non l'ho mai vista, ma c'è una zucca particolare che si chiama zucca spaghetti. Allora, appena tu la apri, vengono fuori praticamente delle striscioline che sembrano spaghetti, tu le puoi condire, e sembra che sia anche questo una cosa molto molto molto interessante. Beh, devo dire che adesso allora andrò a cercare, perché io sono molto appassionata di zucca anche come dolce. Ti confesso che... E tu qual è? Dimmi qualche dolce preferisci con la zucca. No, ma io la mangio anche solo cotta al forno con un po' di miele e noci. Ma a me piace già così. Ah, ecco, questo non l'ho mai mangiata, però visto che sei su questa tendenza, te lo consiglio a Natale, il panettone alla zucca. Allora, facciamo una cosa. Mi hai già dato l'idea, la prossima settimana cominciamo a parlare di panettoni? Come no? Cominciamo anche che... con me. Ecco, perché panettone. Noi una volta l'abbiamo mangiato insieme anche a luglio, però magari sì, cominciamo vero. Già a suggerire gli indirizzi giusti, perché la prossima sarà la prima puntata di novembre e bisogna cominciare a prepararsi per i grandi panettoni. Va bene, Davide? Va bene, allora al panettone della prossima settimana, e un saluto ai nostri radioascoltatori. Grazie a Davide Paolini. Insomma, buona zucca a tutti, oltre a questo poke, questa nuova moda, quelli che vogliono essere alla page andranno subito a mangiarlo. Intanto c'è Enrico Pagliarini in studio, che sei riuscito a fotografare il l'aggeggio. Sì, sì. Adesso lo twitti, bene. Sì, adesso bene. Facciamo tutto anche perché ci hanno chiesto via Twitter la foto del distanziofono. Siamo pronti. Adesso lo twittiamo. Noi adesso diamo la linea al giornale radio delle 16 e poi saremo ancora insieme con il Sabato del Villaggio. Avremo un sacco di pagine, un sacco di blocchi dedicati a Halloween. Ci troviamo tra poco. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Il segnale orario vi è offerto da... Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. Radio 24 è a Lucca in occasione del Lucca Comics. Per chi non potrà essere lì con noi, il 1° novembre è giornata dedicata al mondo del fumetto, con interviste, personaggi, approfondimenti e 3 appuntamenti speciali con Dylan Dog alle 10, alle 14 e alle 18. Se vuoi saperne di più, vai su radio24.it. Il Sabato del Villaggio. E rieccoci con la seconda ora del Sabato del Villaggio, dove il villaggio, questa volta lo dico, è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E beh, come sempre poi dalle 17 alle 18 il consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come contattarci, come tenerci compagnia, perché noi siamo qui in diretta, 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, tanto lo so che ce l'avete in rubrica, comunque 349-238-6666, casomai salvatelo per la prossima volta. E se invece preferite utilizzare Twitter, @ Marta Cagnola, il mio account, cancelletto ISDV come il Sabato del Villaggio, è l'hashtag. Ma scopriamo i temi della seconda ora, sempre appunto con Halloween come filo conduttore. Andremo a Lucca Comics, l'evento del fine settimana, poi i libri del momento, tutti a base di brividi, con la nostra Alessandra Tedesco, lo spazio dei consumi e delle nuove tendenze con Maria Luisa Pezzali. Questa settimana la tendenza è, gli zombie. Ma prima, tutti i consigli per il fine settimana al cinema. Lei l'ha vista mentre scriveva? No. Perché è polacco. Doris, chi è stato? Te lo faccio vedere. Ci sei? Sta succedendo qualcosa che non riusciamo a capire. Sono preoccupato per sua figlia. Il mondo degli spiriti è pericoloso. Penso che stia canalizzando poteri che noi non capiamo. Ci sei? Ci sei? Sì. E rimaniamo in tema di Halloween, di paura, di spaventi, con le uscite cinematografiche di questa settimana. Già abbiamo un assaggio con questa clip, ci facciamo consigliare tutto da Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, effettivamente c'è, se qualcuno proprio non riesce a farne a meno, no? Per prepararsi a Halloween. Di fare dolcetto, scherzetto, sì, filmetto. Sì, ecco, esatto. C'è anche il filmetto halloweeniano, che è Ouija, penso che si dica così, Ouija, è un titolo, Ouija, le origini del male. L'origine del male è il secondo film di questa, che è una mini saga al momento, così, horror, che torna, se vogliamo, sul tema della casa posseduta, spiritata. Piace, ai fan di Halloween piace. È un archetipo, diciamo così, dell'horror di tutti i tempi, la storia che prende le mosse nella Los Angeles del 65, dove una madre ormai vedova con le sue due figlie cominciano a armeggiare con le sedute spiritiche, insomma le cose non andranno benissimo, se no non avrebbero fatto il film, e quindi la figlia più giovane viene posseduta da questa entità implacabile che era appunto presente nella casa. Se siete proprio appunto degli addicted del film horror, per completare lo spirito della Notte delle Streghe, eccolo qua. Ci siamo anche al cinema. Abbiamo parlato qualche settimana fa, un paio di settimane fa, parlando della Festa del Cinema di Roma, del film di Piff, che finalmente esce. Finalmente esce, guarda Marta, sono molto contento, tra l'altro ti annuncio che lo avremo al telefono fra pochi minuti alla Rosa Purpurea dalle 18 in collegamento con noi per parlare appunto di In guerra per amore, che qualcuno ha detto è un po' una sorta di sequel della Mafia uccide solo, anzi di prequel della Mafia, sì, uccide noi, solo sì, l'estate, un sequel in termini temporali, ma si colloca, ai noi, giustamente dicevi tu, a metà del secolo scorso, cioè nel momento in cui gli americani sbarcano in Sicilia. Qualcuno si chiederà ogni tanto, ma tutta questa cosa della mafia eccetera eccetera, dove è cominciata, quando è cominciata? Ecco, Piff colloca proprio nello sbarco in Sicilia, e non che la mafia non ci fosse prima, ma nel potere che è stato dato alla mafia da parte degli americani, che hanno utilizzato, diciamo così, questi canali per sbarcare in Sicilia praticamente senza una perdita e da lì cominciare la scalata dello stivale. Piff lo fa da una parte in maniera molto documentata, perché alle spalle ci mette un rapporto che fu fatto da un ufficiale americano che metteva in guardia tutti: guardate che qui stiamo consegnando troppo le chiavi della gestione alle famiglie mafiose. Non è stato molto ascoltato, mi pare di capire, no. E d'altra parte lo fa però con i toni della favola, che sono i suoi, cioè quello di raccontare con leggerezza qualcosa di molto profondo. L'aveva fatto con La mafia uccide solo d'estate, con gli occhi del bambino innamorato, lo fa stavolta con gli occhi del grande innamorato, perché è la storia di un ragazzo, appunto interpretato da Piff, che per cercare di venire a capo un po' del suo possibile matrimonio deve andare in Sicilia dagli Stati Uniti, da New York, a chiedere la mano della sua bella al padre, che sta appunto in Sicilia. Come fa, visto che non ha il becco d'un quattrino? Si imbarca con l'esercito, si arruola e va appunto in Sicilia. Quindi si torna a giocare un po' come faceva Benigni dei tempi migliori, no? Un po', sì, con lo sguardo incantato, però per raccontare cose molto profonde. Ora, Piff non è ancora forse a livello del miglior Benigni, parlo della Vita è bella per intenderci, però ci sta lavorando su quel solco, e secondo me questa cosa va molto molto incoraggiata. Sono d'accordo. Filmoni d'autore questa settimana per i veri cinefili c'è qualcosa? Ma guarda, sì, c'è assolutamente più di qualcosa. Guarda che è una settimana molto molto bella. C'è un film che si chiama Parola di Dio, che veramente vi sventrerà da dentro, perché è la storia di un integralismo cristiano vissuto dal di dentro, in un mondo cristiano, un film russo veramente bellissimo. Ma voglio soprattutto citare La ragazza senza nome, la fille inconnue dei fratelli Dardenne, due volte vincitori della Palma d'Oro a Cannes, vincitori di premi praticamente a ogni film che fanno. Questo è il loro nono film, e racconta la storia di una dottoressa, di una giovane dottoressa, che una sera, perché l'orario del suo ufficio è finito da un'ora ormai, non va neanche a guardare chi c'è dietro quel video citofono che suona. Il giorno dopo viene trovata una ragazza di colore, senza documenti, appunto sconosciuta, morta lì vicino al suo ambulatorio. E questo farà scattare da parte di questa ragazza, da una parte, un senso di colpa tremendo, e dall'altra la, ri- ricerca spasmodica di un nome da dare a questa giovane donna, almeno che si sappia che questa persona non c'è più, almeno che i suoi cari possano saperlo. È un film sul senso di colpa, sulla responsabilità, sull'Occidente che volta le spalle, come sempre di grande profondità morale da parte dei fratelli Dardenne. Anche loro saranno ospiti della Rosa Purpurea con un'intervista esclusiva che abbiamo registrato proprio un paio di giorni fa. Ma è un film, anche questo, che ti rivolta e ti mette di fronte a delle domande, ed è un po' quello che deve fare il cinema, sicuramente quello che fanno spesso i Dardenne. Concludiamo con le famiglie, ragazzi, bambini, al cinema tutti insieme questo fine settimana? Ma ci sono due proposte, Marta. Da una parte c'è Trolls, che è l'animazione della settimana, dai creatori di Shrek, tra l'altro, quindi, come dire, c'è sicuramente spazio per aspettarsi un grande successo. Avrete visto le pubblicità in giro, i trailer, la storia di queste piccole creature con questi capelli molto molto colorati. Tra l'altro segnalo nel cast vocale anche la presenza di Elisa, mentre in quello originale c'erano Justin Timberlake e Anna Kendrick. Dall'altra voglio segnalare anche l'arrivo in sala di un film molto atteso, perché ancora una volta prende le mosse da un personaggio molto amato degli anni passati, cioè il Doctor Strange, con la Disney, appunto, che porta sul grande schermo le gesta di questo neurochirurgo di fama mondiale, la cui vita cambia dopo un incidente che lo priva dell'uso delle mani. Insomma, sono due proposte veramente family, e quindi direi che questo connota una settimana dove ce n'è per tutti i gusti. Fantastico. Ovviamente tutti i dettagli nella Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18, e al prossimo sabato ancora insieme. Ciao Franco. Grazie Marta. Il sabato del villaggio. Grazie dei vostri messaggi al 349-238-6666, sia SMS sia WhatsApp. Moltissimi sono rivolti ad Enrico Pagliarini per ulteriori chiarificazioni che volete sapere sulle onde elettromagnetiche. Io giro tutto a Enrico. C'è anche un ascoltatore che ci scrive di un brevetto che ha fatto approvare. Insomma, io giro tutto a Enrico Pagliarini, anche perché di questo argomento immagino si occuperà ancora anche in 2024. Adesso però è il momento di aprire un'altra pagina del nostro Sabato del Villaggio. Questo sabato abbiamo sempre paura, dobbiamo sempre rabbrividire, perché stiamo già respirando aria di Halloween, e lo facciamo anche con i libri. Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso, su, apri la porta. Su, apri, non hai sentito il mio toc, toc, toc? Allora vuoi che soffio? Vuoi che faccio puff? Allora devo aprirla io la porta! No! Ti prego! Sono il lupo cattivo! Con questo Stephen King siamo proprio in tema di Halloween, di paura, è il nostro filo conduttore di questo Sabato del Villaggio. Ma ci sarà mica anche un libro di Stephen King di cui parlare? Lo chiediamo subito alla nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, ma io avrei voluto il dolcetto. Non la domanda, non si può. Lo scherzetto. No, dobbiamo parlare di Stephen King allora. Allora parliamo di Stephen King, sì, perché è un libro che è uscito da poco, quindi se ne sta già parlando tanto. Ogni volta che esce un suo libro, chiaramente è un grande successo. Ha degli adepti. Sì, brava, ha degli adepti, e infatti io ho fatto leggere questo libro ad un'adepta per avere un po' anche il parere di chi veramente ha letto tutto e di tutto di Stephen King. Allora, il libro si intitola Fine Turno, pubblicato in Italia dalla Sperling Kupfer, ed è la terza parte, il terzo volume della trilogia poliziesca, in cui il protagonista è Bill Hodges. Giusto per ricordarvi gli altri due titoli, Mr. Mercedes e Chi perde paga. Allora, che cosa succede? No, anche perché voglio capire se succede qualcosa di drammatico a fine turno, perché poi io ho paura a fine turno a uscire dal lavoro. È un'altra forma di fine turno. Ah. Diciamola così, non posso scendere in troppo nei particolari. No, non svegliamo niente. Ma tu stai serena. Ah, ok, io sto serena. Stai serena. Hashtag. Allora, il protagonista è naturalmente sempre il poliziotto in pensione Bill Hodges, che stavolta con la sua, diciamo, partner Holly, che è, insomma, una persona che ha un po' dei problemi psicologici relazionali, definiamoli così, deve indagare su un caso abbastanza misterioso. Un suo ex collega, un suo ex partner della polizia lo chiama e dice: guarda, abbiamo trovato un apparente caso di omicidio-suicidio, però una delle vittime è una donna, una ragazza che, guarda caso, era rimasta gravemente ferita durante il famoso incidente di Mr. Mercedes. Ah, cioè questa auto impazzita che aveva travolto una serie di persone, eccetera. Allora, questa ragazza, questa donna era rimasta gravemente disabile e vengono trovate morte in casa lei e sua madre. Lei uccisa, non si sa, insomma, con delle pillole. La madre con un... vabbè, no, non entro nei particolari. Ora solo il racconto. Senti, la super esperta cosa ha detto? Ha allora, la super esperta, perché io faccio leggere ogni tanto i libri anche ad altri, perché ovviamente io non ho letto tutto King e quindi non posso esprimere un giudizio, no, proprio da super fan. In questo caso credo che i fan ti dicano esattamente, sì, fanno le pulci proprio. Sì, allora sì. Mi ha detto che il romanzo è bello, ma non è il migliore fra quelli di King, nel senso che gli ultimi romanzi di King, secondo questa mia amica che si chiama Alessandra, pure lei, diciamo, non è il King del terrore dentro la normalità, la quotidianità, oppure dei grandi affreschi, dei grandi intrecci. È un buon King, ma non è un ottimo King, quello degli ultimi anni, e quindi anche questo fine turno Stephen King da leggere nella notte di Halloween. A proposito di notte di Halloween e di libri scary scary, paura, ne hai altri? Allora, andiamo subito ai bambini o facciamo ancora gli adulti? Come vuoi, un accenno di adulto facciamolo ancora. Dai, allora, c'è un libro, in realtà è una storia vera, però fa paura, perché veramente la storia vera è pazzesca. Il libro si intitola Il giardino delle mosche, l'ha scritto Andrea Tarabbia, pubblicato da Ponte alle Grazie. È stato uno dei 5 romanzi finalisti del premio Campiello. Un libro bellissimo, secondo me, perché racconta la storia vera del cosiddetto mostro di Rostov, quello che nell'Unione Sovietica fra gli anni 80 e 90 aveva ucciso, fra, adesso non ricordo il numero esatto, 57 o 59, fra bambini e donne. Perché è bello questo libro? Si spaventa, sicuramente è un romanzo forte, ma è bello perché Tarabbia è riuscito a raccontarlo dal punto di vista dello stesso mostro di Rostov, di Cicatillo, che si confessa, diciamo, idealmente così, ad un magistrato, e racconta alcune cose. È bello perché indaga proprio nella mente di quest'uomo, che apparentemente conduceva una vita normalissima. La moglie non si è mai accorta di nulla. Si è accorta solo quando è stato portato in carcere ed è stato condannato. Da non leggere di sera prima di andare a dormire, diciamo. Però è un romanzo molto bello, perché veramente non ci sono tanto scene forti, in realtà, e come veramente ha ragionato quest'uomo prima di commettere questi chiaramente non lo scusa, chiariamo, certo, non è certo, che è una giustificazione, certo, anzi, certo. Però il narratore, la bravura dello scrittore è stata quella di cercare di immedesimarsi in questa mente malata. Leggere paura per i ragazzi, allora sorridiamo un po', dai. Allora, li ho scelti un po' in ordine di età, dai 9 anni in su. Frank Einstein o Frankenstein, vedi tu come lo puoi pronunciare, ti dice qualcosa? Sì, come suona bene. Frankenstein e l'elettrodito, scritto da John Schiensch, spero di pronunciarlo bene. Allora, è pubblicato in Italia da Il Castoro, e tra l'altro l'autore del diario di una schiappa, Jeff Kinney, ha detto di questo libro: vi farà sbellicare dalle risate. Allora, i protagonisti sono naturalmente questo Frank Einstein con i due collaboratori robot Clink e Clank e l'amico, scusami, è da ridere, l'amico fidato Watson, e Frank appunto costruisce questo elettrodito. È praticamente un aggeggio che permette di fornire energia gratis a tutta la città senza bisogno di fili, però naturalmente c'è un antagonista, c'è un nemico, insomma è un modo per scherzare anche con i cosiddetti mostri, la paura. Quindi questo Frank Einstein, pubblicato da Il Castoro, diciamo dai 9 anni in su. Questo già per me può andare bene come grado di paura, salendo di età. Allora, salendo di età, ho voluto scegliere dei classici riproposti però per i ragazzi. Allora, diciamo dalle scuole medie, 11 anni in su, Agatha Christie e Arthur Conan Doyle. Ma in che versione? Allora, la Mondadori ha pubblicato nella collana Oscar Junior questi classici, diciamo, del brivido, scelti e opportunamente, diciamo, riproposti da alcuni scrittori famosi. Quindi abbiamo Agatha Christie, Le indagini di Hercule Poirot, che è stato proposto da Marco Malvaldi, famoso, certo, diciamo, autore dei vecchietti del barlume, quindi anche con una certa ironia. E qua ci sono dei racconti in formato, diciamo, bambino, dagli 11 anni in su. E poi c'è Arthur Conan Doyle, vabbè, lo sappiamo, I misteri di Sherlock Holmes, in questo caso scelti e consigliati, presentati da Lorenza Ghinelli, che è una scrittrice che qualche anno fa, con il romanzo La colpa, se non erro, arrivò finalista al premio Strega. È una brava scrittrice, tra l'altro riesce sempre ad avere molta sintonia con i ragazzi, quindi, certo, quindi secondo me è una buona scelta. Quindi questi due classici proposti da Mondadori, dai 12 anni in su, da quelli più grandicelli. E questo è un romanzo, pensa, che è stato pubblicato con il sostegno di Amnesty International Italia, perché ha anche a che vedere con il tema del bullismo. Si intitola Da quando ho incontrato Jessica, di Andrew Norris, sempre pubblicato dal Castoro in questo caso, perché allora dunque parla di un ragazzino, Francis, che ha un'amica immaginaria, ma veramente immaginaria, Jessica, perché Jessica è un fantasma. Jessica è una ragazzina che è morta un anno prima ed è un fantasma, è solo lui riesce a vederla, lei si diverte moltissimo con lui. A un certo punto incontrano altri due ragazzini che riescono a vedere Jessica. Il mistero è: perché solo questi tre bambini viventi riescono a vedere il fantasma di Jessica? E non ve lo posso dire. Però carino, insomma, si impara dai 12 anni in su, però, perché c'è il discorso del fantasma, del mistero, quindi Da quando ho incontrato Jessica lo consigliamo per i ragazzini, insomma, delle medie. Per concludere, vedo che hai davanti a te due libri importanti. Due libri importanti, non hanno niente a che vedere, insomma, con il tema di cui stiamo parlando, con Halloween, però sappiamo tutti quello che è successo a Calais questa settimana, lo sgombero del, diciamo, di quel campo. E allora ho recuperato un piccolo libricino che scrisse qualche mese fa Emmanuel Carrère, famoso autore, non so, per esempio, dell'Avversario francese, che ha fatto un piccolo reportage andando appunto a Calais, in questo spazio che era definito giungla, e quindi parlando un po' sia con i rifugiati che con i cittadini del posto. Il piccolo libro è pubblicato da Adelphi, e a questo punto l'ho legato a Lampedusa, scritto da Malise de Kerangal, pubblicato da Feltrinelli, che è sempre un piccolo libro, sono 70 di pagine, sull'immigrazione, visto con l'occhio di una scrittrice francese che ha una grande, grandissima empatia e sensibilità. Grazie Alessandra per tutti i consigli, però vorrei anche rimandare al cacciatore di libri. Oggi è la volta della vegana, sì, alle 22 stasera. Ha avuto un grandissimo successo, quindi approfondiamo. Sì. Alle 22 stasera, poi naturalmente in podcast, La vegana, questo bellissimo romanzo scritto dalla sudcoreana Ahn Kang, pubblicato da Adelphi. Sentirete tutta l'intervista, bello, bello, bello. E poi podcast radio24.it e anche la nostra nuova app che ci permette di fare un sacco di cose. Grazie Alessandra. Il sabato del villaggio. E rieccoci con questo sabato del villaggio che stiamo dedicando a Halloween. Ci stiamo preparando per Halloween, ne parleremo ancora per la prossima mezz'ora, poi dalle 17 alle 18 ci sarà il nostro appuntamento con RadioTube e un sacco di ospiti interessanti. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Ancora consigli su Halloween, intanto quelli televisivi. Non abbiamo ancora parlato di TV. C'è qualche TV che ha già annunciato tutte le novità per questi giorni di Halloween, TV e anche non TV, perché davanti a me ho le novità di Netflix. Ah, ecco cos'ha Netflix per questo weekend di Halloween, perfetto. The Ouija Experiment, abbiamo parlato di Ouija con Franco D'Assisi, The Ouija Experiment su Netflix. Dead Silence, già mi fa paura la foto che correda. il titolo Devil, 5 sconosciuti si ritrovano bloccati all'interno di un ascensore. Ha però Dark Shadow, The Skeleton Key e Paranormal Activity numero 2. Ma ci sono anche gli scherzetti di Netflix per i più piccoli, c'è Shrek, Storie di Palude, Scuola di Vampiri e Scooby-Doo. Questi li posso guardare anch'io. E poi ancora per quanto riguarda le novità invece ha dei canali di Agostini per questo fine settimana che ci porta a Halloween, la nuova edizione di Street of Magic, Street Magic avvicinata ai ragazzi con Alex Parabiaghi, che ai ragazzi piace moltissimo, da lunedì alle 20.50 su Super. Guest star della prima puntata, ah che bello, mio amico Aristide Malnati. E poi la nuova edizione dell'Officina dei Mostri su Dea Kids, canale 601 di Sky. Sono dei canali di cui magari parliamo un po' meno, invece vanno segnalati anche loro hanno delle ottime idee, in particolare per questi giorni di Halloween. Ma è il momento di aprire un altro capitolo del nostro Sabato del Villaggio, perché parliamo di consumi, di tendenze, sempre in tema di brividi. Ovviamente in tema di Halloween, di paura, di notte delle streghe, è un po' il tema conduttore di questo Sabato del Villaggio, ma anche nei consumi? Beh, lo chiediamo subito alla nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Beh sì, nei consumi e zombie mania. La tendenza c'è allora. E non solo in questo momento dell'anno, è una tendenza molto alimentata ovviamente da film e serie TV. È impossibile non citare una serie cult come The Walking Dead, dal 2010, oggi siamo credo alla settima stagione ormai, tratta tra l'altro da un'omonima serie a fumetti sugli zombie. Per i sociologi americani, così dissero, pensa Marta, al suo esordio, riflette il sentimento di apocalisse imminente subentrato dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre. Posso capirlo. C'è anche una giustificazione che purtroppo anche di questi tempi, quindi ha la sua ragione d'essere. Zombie che hanno scalzato in qualche modo i vampiri, così dalle preferenze degli amanti del genere, ed è un mondo fatto di siti, blog, communities, prodotti, gadget di ogni genere. Pensiamo anche solo a tutto il mondo dei cosplayer, ad esempio lo sai Marta che esistono le zombie walks? E cosa sono? Passeggiate? Sì, sono delle passeggiate, dei raduni di persone abbigliate e truccate da zombie che invadono le strade, i luoghi pubblici, eccetera. Ma ecco, io di notte preferirei non incontrarli per caso. Ovviamente, però è un mondo insomma talmente denso che per parlarne ovviamente abbiamo chiesto aiuto ad un esperto di zombie che è Massimiliano Supporta, è il direttore artistico in realtà del Torino Horror Film Fest che si è appena chiuso. Buon pomeriggio Massimiliano, ciao. Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, tu ce lo confermi, come dire, questo mondo zombie fa tendenza? Assolutamente, come ben dicevate, diciamo che nell'immaginario degli amanti del fantastico gli zombie hanno sostituito decisamente i vampiri, che erano un personaggio più ottocentesco di natura. Invece i zombie da Romero, da Giorgio Romero in poi, quindi dal 68 in poi, incarnano molto meglio le paure e le ansie della società che viviamo. Ma è un modo per esorcizzare oppure agli appassionati piace proprio avere paura? Me lo chiedo sempre. Ma ti parlo un appassionato, a me piace avere paura, anzi mi diverto solamente quando ciò accade, quando vedo un film o una serie TV, quando riesco, cioè la sospensione dell'incredulità raggiunge anche un forte esperto, quale sono io, perché il film funziona, o il fumetto, la serie TV. Bisogna spaventarsi, anche perché la paura è un sentimento positivo, è quello che ci mette al sicuro, quindi bisogna rispettarla la paura. C'è stato, come dire, un salto di qualità negli zombie da Thriller di Michael Jackson, penso a quello, proprio per parlare di immaginario collettivo, in avanti? Eh beh, sì, diciamo che con Thriller lo zombie è diventato anche un personaggio pop. In realtà già in George Romero, che è la persona che ha inventato il fenomeno del morto vivente come noi lo conosciamo, già aveva caratteristiche terribilmente pop, soprattutto nel secondo film. Quando parlavate di consumi all'inizio della trasmissione, mi è parso interessante, perché l'analisi che fa Walter Romero dello zombie è proprio, come dire, in chiave anticonsumistica. Ci vede un po' tutti come zombie che seguiamo le correnti senza tanto pensare, ecco. Quindi in questo diventa un personaggio pop lo zombie, perché ci possiamo decisamente riflettere nel suo camminare senza meta, nel suo non avere grandi obiettivi se non quello di nutrirsi. Massimiliano, hai una chicca da consigliarci? Un film sugli zombie da scoprire in questo weekend di Halloween, da recuperare? Che cosa ci consigli di guardare? Sì, allora, un film secondo me da guardare è Zombieland, che è una commedia. Allora, me ne dico due commedie, perché comunque Halloween è una festa, bisogna anche divertirsi, quindi anche l'horror può avere venature comiche o di questa commedia. Una è appunto Zombieland, che è all'incirca tratto dal manuale per sopravvivere all'apocalisse zombie di Max Brooks, ed è molto divertente, diciamo, è proprio, come dire, un manuale per sopravvivere agli zombie. Mentre l'altro è Shaun of the Dead, l'alba dei morti dementi, un'altra commedia, anche questa è molto divertente e comunque in certi momenti riesce anche a fare paura, quindi, perché comunque il morto che cammina, insomma, paura fa, ecco, questo è sicuro. Beh, abbiamo due consigli, questi forse li posso guardare anch'io. Beh, anch'io questi ringrazio per questo avvicinamento anche alla commedia, perché io non resisto invece, a me non piace avere paura. Ringraziamo il nostro esperto di horror e quindi anche di zombie, Massimiliano Supporta, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ciao Massimiliano, grazie. Ciao. Beh, insomma, allora, zombie vanno di moda, ci piacciono, abbiamo trovato davvero una tendenza. Beh, anche per l'invecchiamento comunque è pur sempre un supporto, no? Sì, infatti, cominciamo ad andare di moda anche con qualche ruga. Ma è il momento delle chicche della nostra Cristina Lazzati, ce l'abbiamo in linea. Ciao Cristina! Ciao a tutti, eccoci qui, pronti per Halloween? Ah beh, siamo tutti in tema, siamo pronti. Tu sei pronta? Io sono abbastanza pronta, mi sono preso un po' di informazioni così condivido con voi. Allora, oh, bene, bene. Cosa facciamo in questo lungo weekend? Si può andare in giro e diciamo che l'Italia si è assolutamente adeguata a questo festeggiamento di Halloween, e quindi ci sono villaggi fatti apposta per, addirittura un villaggio a Giuliano, in provincia di Napoli, attaccato a Napoli, che è il primo villaggio tutto dedicato ad Halloween e che sarà aperto per 4 giorni, dal 31 ottobre in particolare, dal 29 al 31 ottobre, per la festa più horror dell'anno, dicono loro, e quindi grandi e piccini eccetera. Altrimenti, se invece se siete a Milano, e questo è più per adulti, all'Escalo Carini in via Valtellina c'è la Monsterland Festival, dove appunto chi ha pensato di vestirsi da zombie può andare tranquillamente, ne troverà tanti altri e farà tanta amicizia. A Comacchio abbiamo le feste per i bambini, anche qui streghe, fattucchieri eccetera, dalle 10 del 31 ottobre, fantasmi ovunque. In più ci sono, se cercate un attimo su internet, anche i luoghi spaventosi che di fatto dove si aggirano i fantasmi. Ve ne cito tre perché mi sono piaciuti: una a Venezia, l'isola di Poveglia, dove di fatto pare che ci siano dei fantasmi che ogni tanto si sentono e si vedono. Certo. A Genova, alla Casa delle Anime, dove c'è questa locanda dove c'erano questi locandieri assassini che hanno ucciso un sacco di persone per derubarli, e lì insomma queste persone non se ne sono andate, sono diventati fantasmi. E infine a Parma, all'ospedale di Colorno, dove sono passati diversi centinaia di anni fa aveva ospitato lazzaretti e quant'altro, e anche lì insomma qualcuno ha deciso di fermarsi invece di volare da un'altra parte. A questo punto bisogna pensare al costume e certo, insomma non abbiamo tanto tempo. Allora, se si vuole comprare su Amazon Prime, effettivamente in 2 ore viene consegnato, e lì abbiamo streghe, fattucchiere per bambini e per adulti, un po' di zucca, un po' di cose per decorare la casa, per renderla spaventosa. Altrimenti si può, c'è sempre il fai da te, anche lì internet è grande fonte, con addirittura dei video in cui ti insegnano, ma uno che mi è piaciuto è quello del pipistrello fatto con un ombrello. Quanti ombrelli rotti abbiamo in casa? Un sacco, perché poi ormai ahimè li compri e si rompono, e quindi utilizzando un ombrello si possono inventare delle meravigliose ali di pipistrello e girarsi così per la città, perché a quanto pare sta diventando un po' come il carnevale, quindi si può. In questi giorni ci sono i bambini che si aggirano in giro felicissimi di potersi mettere in maschera. A quel punto la moda delle maschere quest'anno vuole che ci siano, ovviamente a parte le streghe, gli zombie e i vampiri, si è aggiunta anche tutta la saga di Star Trek, per cui se volete fare la parte tecnologica, tirate pure fuori, care mamme, dal guardaroba il costume di carnevale di Star Trek, perché di Star Wars, perché va benissimo. In più ci sono anche dei consigli per chi la tecnologia ce l'ha sempre per le mani, e quindi ho visto un bellissimo costume fatto con 2 iPad, uno messo sulla pancia davanti e uno dietro, che proiettava in loop un buco terribile nella pancia da cui sgorgava sangue. Quindi facciamoci aiutare. Invece per le offerte ho visto che ad esempio Vodafone regala 4 giga da mezzogiorno del 31 alla mezzanotte dell'1 per tutti i suoi abbonati, quindi abbonati Vodafone buttatevi che avete 4 giga gratis. My Beauty Box fa una promo per chi fa shopping in questi giorni, regalando un make up spaventoso, e a voi lascio, come dire, l'immaginazione può volare dove volete. E infine, tornando un attimo ai viaggi, Grupalia offre una serie di parchi di divertimenti da Gardaland a Mirabilandia, dove anche lì ci saranno grandi feste per bambini e anche non bambini, per divertirsi con tema Halloween. Vado a recuperare i video e i tutorial che ci hai citato, così li posto su Twitter. Grazie a Cristina Lazzati, a presto! Grazie a voi, buon Halloween a tutti! Buon Halloween anche a te! Allora Maria Luisa, abbiamo tutti i consigli, abbiamo tutte le indicazioni, anche i film da vedere. Io sono pronta. Manca solo l'appuntamento con Essere Avere? Beh, quello sì, domani alle 22 come sempre. Ciao Marta! Il sabato del villaggio. Dalla regia il nostro Christian Goldoni mi dice che questa è la sigla di The Walking Dead, che a me fa troppa paura. Io non posso guardare The Walking Dead, e Christian mi ha detto che la prima puntata della nuova stagione è ancora più paurosa delle altre. Molto molto bene per gli appassionati. Abbiamo sentito che c'è qualcuno che ci ha spiegato che la paura è un fatto molto molto positivo, è una bellissima sensazione. Io tendo ancora invece a spaventarmi sul serio. Comunque Walking Dead, che va in onda su Fox ogni lunedì alle 21, così abbiamo dato anche la segnalazione precisa, sempre informazioni di servizio. Questo weekend è uno dei weekend più attesi dell'anno da parte di chi? Dei nerd, che io amo profondamente, tutti quelli che sono appassionati di fumetto, che sono appassionati di travestimenti, che sono appassionati di tante cose, di tante cose divertentissime, si ritrovano tutti a Lucca Comics questo fine settimana, e abbiamo un inviato per la prima volta a Sabato del Villaggio. Sono molto contenta di accoglierlo, chissà se in questi giorni ha visto delle cose molto belle, adesso gliele chiediamo tutte. Il nostro Adriano Palazzolo, ciao Adriano! Grazie per questa presentazione, per questo debutto. Io non sono a Lucca, ma sono in paradiso. Ah, addirittura! Per chi è un amante del cinema, dei fumetti, delle serie TV, dell'animazione, non c'è posto più bello che Lucca quando c'è il Lucca Comics, che è iniziato ieri e che dura fino al 1° novembre. Ma sento la gioia nella tua voce, sì, Adriano. Sì, allora dimmi che cosa c'è da non perdere a Lucca Comics. Allora, per quel che riguarda i fumetti, oltre a tutte le cose tradizionali, grandi Marvel, Batman, eccetera, ho scoperto una supereroina curvy, come si dice adesso, che in realtà è una ragazza un po' grassotta. Si chiama Faith, è una blogger bionda che di notte mette la sua tutina, anche se un po' in carne, e va a combattere il crimine. Pensa che in America il fumetto è stato il fumetto con la quinta ristampa più rapida nella storia. E adesso arriva in Italia e sarà disponibile dal 16 novembre. Come si chiama? Come si chiama? Non l'abbiamo sentito bene? Faith. Faith come fede. Fantastico. Fantastico. Poi guarda, non lo sapevo, ma visto che hai parlato di The Walking Dead, io a Lucca Comics ho visto The Walking Rats del fantastico Leo Ortolani, con il topo più irriverente del fumetto italiano. Ovviamente prende spunto dalla serie TV per fare un po' una storia ironica e anche che ci fa riflettere. È importante dire che di questo volume, che troviamo già nelle librerie, verrà realizzato per Emergency una versione, verrà realizzata una versione speciale che ha una tiratura limitata e il cui ricavato andrà proprio ai progetti di Emergency. Adriano, il nostro Dylan Dog come sta? Sta bene? Dylan Dog sta bene, c'è un albergo dove si può provare un'esperienza sensoriale che io però non ho avuto modo di fare perché c'è una fila infinita, come tutto qui a Lucca Comics. Ieri abbiamo anche raccontato di dietro le quinte del nostro Radio Fumetto, ma ti dico un'ultima cosa sui fumetti, perché ho scoperto qui a Lucca un concorso che si chiama Feel the Comics, senti i fumetti, ed è un concorso unico nel suo genere perché è rivolto agli operatori del settore, agli artisti, ai disegnatori, agli sceneggiatori, creare il primo fumetto completamente dedicato ai non vedenti e agli ipovedenti. Ah, questa è un'ottima cosa. È una cosa molto bella perché esistono già delle pubblicazioni, illustrazioni che sono un po' la traduzione in braille di opere pensate per chi vede. Invece questo fumetto, che verrà scelto tramite un concorso, parte dal lato opposto, quindi è per i non vedenti e gli ipovedenti, ma sarà fruibile anche dalle persone che vedono. Si chiama Feel the Comics, se c'è qualche disegnatore che si vuole cimentare basta cercare su internet il nome di questo concorso e troverà tutte le regole. Adriano, visto che dici di trovarti non a Lucca ma in Paradiso, ti sei travestito? Hai fatto il cosplay? Allora, io purtroppo no, perché volevo travestirmi da elfo, ma mi mancano i capelli. Come elfo ti vedo benissimo. Vero, perché sono bello, però mancano giusto i capelli o insomma la capoccia un po' lucida, ma mi inventerò qualcosa. Però ho incontrato tanti cosplayer, che sono persone che indossano un costume che rappresenta il personaggio di un fumetto, di una serie TV o di un film, che in Giappone trovi per strada durante tutto l'anno, mentre qui in Italia o comunque in Occidente queste cose vengono fatte durante le fiere. Mi sono preso coraggio perché la persona che ho intervistato era travestito da un cattivo, si chiama Andrea Buggio, e mi ha raccontato che cosa fa. Ce l'abbiamo. Sono qui perché ormai è una tradizione, io vengo qua da 5 anni, anche se sto a un paio di chilometri da qui, e tutti gli anni porto un costume diverso. È una mia passione e un modo mio per divertirmi che mi piace un sacco. Un cosplayer è una persona che innanzitutto si diverte a portare i personaggi che ama in prima persona. Una differenza fondamentale tra un cosplayer e una persona che si mette un costume è che il cosplayer, per la maggior parte dei casi, il costume se lo produce da solo. Se lo produce e se lo realizza interamente in ogni particolare, in ogni dettaglio. E questa è la cosa che differenzia più che altro una persona che ama la propria passione e che ama ciò che fa. Nel mio caso io mi sono realizzato questo costume quest'anno in circa 3 mesi. Sono portato Deathstroke, che è un cattivo dell'universo DC, un cattivo di Batman. E è fatto tutto di foam, è verniciato con le bombolette spray e parti in vetro resina. Mi ci sono messo un po', ci ho perso un po' di tempo. L'avevo portato già a un'altra fiera tempo fa e quindi, nel senso, sapevo già che comunque è un personaggio apprezzato e riscontro questa, cioè trovo dimostrazione anche oggi, via. Però è importante far notare che il cosplay e queste fiere portano anche tante persone con la stessa passione che quindi si uniscono e trovano, riusciamo facilmente a trovare amici nuovi e, oppure conoscenze interessanti nel solito mondo, nel solito campo. Beh, devo dire che i cosplayer sono veramente molto molto simpatici. Mi hanno detto che quest'anno andava molto di moda Suicide Squad e tante ragazze erano vestite da Harley. Mi dai la conferma. Perché molti avevano la mazza e allora stavo lontano. Giustamente. Mi hanno detto che era quello più gettonato. Sì, Adriano, sì. So che tu farai un sacco di cose per Radio 24 in questi giorni, che ci sarà anche una giornata in cui racconterai tantissime cose, una giornata molto dedicata a Lucca Comics, e quindi avremo modo di sentire tutto quello che accade a Lucca, o come preferisci dire tu, in paradiso, visto che ti stai divertendo tanto. Grazie Adriano per essere stato con noi. Dici solo una cosa da non perdere al volo. Un film bellissimo, a discapito del nome, che è La mia vita da zucchina, film in slow motion francese che farà piangere bimbi e grandi. Sono davvero completamente bello. D'accordo con te, La mia vita da zucchina è veramente carino. Bellissimo. Grazie Adriano Palazzolo, lo lasciamo a Lucca Comics, si sta divertendo tantissimo, quindi lo lascio a cuor leggero, lo sentirete molto spesso in questi giorni su Radio 24. Noi invece diamo la linea al giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme perché c'è un'altra ora da passare insieme al Sabato del Villaggio, che come sapete, come sempre, a quest'ora cambierà d'abito e si trasformerà in RadioTube. A tra poco.